Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Meno 5,9% il prodotto interno lordo italiano nel primo trimestre dell'anno rispetto ad un anno fa. Questi i numeri della crisi, ma il governo è ottimista, sta andando meglio. Arriva l'ok dal Consiglio dei Ministri alla rivoluzione antifannulloni, Brunetta ritira le dimissioni. Al via i pattugliamenti congiunti tra Italia e Libia, ma Roma attacca l'Europa, sta facendo troppo poco e chiede di parlarne al prossimo vertice. Il Papa saluta la Terra Santa con una speranza, la pace è possibile, dice. G8 degli studenti. A Torino tensioni alla vigilia del vertice. Dall'Italia alla Francia l'onda delle proteste. E oggi intanto scioperano i mezzi pubblici. Più traffico e qualche disagio. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. Da mesi purtroppo andiamo ripetendo che il 2009 è l'anno della crisi che si è aperta nel 2008 ma che sta toccando il fondo proprio in questi mesi, in queste settimane. Bene, oggi ci sono anche nuovi numeri. E allora cominciamo da qui, da un dato concreto, quello sul prodotto interno lordo dell'Italia, diffuso dall'Istat. La prima variazione negativa, quella del secondo trimestre 2008, aveva sorpreso un po'. La seconda confermava il trend. Con la terza la speranza si era spenta del tutto. La quarta, quella di oggi, lascia un po' a bocca aperta. Si sapeva che il primo trimestre dell'anno sarebbe stato il peggiore, ma il calo, che sfiora il 6%, somiglia molto a un crollo. Per la precisione, la flessione del 5,9% su base annua e del 2,4% sul trimestre precedente. Il dato è il peggiore dagli anni 80, da quando inizia la nuova serie storica dell'Istat, con numeri confrontabili. Le stime indicano che la diminuzione di valore aggiunto è stata registrata in tutti i settori. L'Italia non è comunque sola, il calo del PIL accomuna un po' tutta l'Europa. In Germania la flessione è stata la maggiore dal 70, la Francia è ufficialmente entrata in recessione con il secondo trimestre consecutivo in rosso. In generale la crescita dei paesi della zona dell'euro, così come quella dell'Unione Europea, ha fatto registrare un calo del 2,5% rispetto al trimestre precedente. Il livello dei prezzi ad aprile resta stabile ovunque, in Europa inchiodata al livello più basso di sempre, un più 0,6%. In Italia l'inflazione è stata rivista al ribasso di un decimo, più 1,2% anno, con una crescita sul mese precedente dello 0,2%. Valeria De Rosa, GR24, il sole 24 ore. E un primo commento dunque è arrivato, quello del Presidente del Consiglio Berlusconi, sentiamolo. La crisi esiste, abbiamo visto i risultati anche che sono stati comunicati questa mattina, erano quelli che si sapevamo, stimavamo i 4,4, 4,5, abbiamo una previsione di 4,6 annuale, ma tutti i contatti che abbiamo con le aziende, con i vari imprenditori ci dicono che ci sono molti segnali che inducono la fiducia, cioè c'è un miglioramento della situazione che ci è riconosciuto da imprese piccole, medie e grandi. Questo non significa che non dobbiamo essere sempre attenti e preoccupati, e significa ancora una volta che questa crisi ha come fattore massimo il fattore psicologico. Ed è compito quindi del Presidente del Consiglio e del Governo di diffondere non pessimismo, ma il contrario del pessimismo, e cioè fiducia e ottimismo. E andiamo a Palazzo Chigi intanto, dove oggi protagonista è stato senz'altro il Ministro Brunetta, Paola Cavadi. Sì, buongiorno. Via libera del Consiglio dei Ministri alla rivoluzione Brunetta, meglio noto come decreto antifannulloni. Mercoledì scorso il Ministro aveva minacciato di dimettersi se il provvedimento non fosse stato rinviato alle Camere entro due giorni. Brunetta è stato accontentato, ha usato una tattica birichina per ottenere il suo risultato, ha detto il Premier Berlusconi congratulandosi con il Ministro. Ma sentiamo adesso le parole di Brunetta. Tutto risolto, tutto è bene quel che finisce bene, un provvedimento estremamente complesso, erano anche comprensibili le preoccupazioni, i timori, le richieste di controllo. Io sono felice, abbiamo riavviato un proficuo dialogo con il sindacato, riformiamo la contrattazione, ci sarà il merito, ci sarà la trasparenza, non più tutto a tutti, ma si distinguerà tra quelli bravi e quelli no, ripeto, un atteggiamento del sindacato molto coraggioso. Stiamo facendo cose che probabilmente neanche nel settore privato si fanno. Io penso che tutto si possa concludere prima del timbro finale del Consiglio dei Ministri, la fine giugno, la prima settimana di luglio, con un ultimo incontro a Palazzo Chigi con il sindacato, quindi più dialogo sociale di così non so cosa si potesse fare. Brunetta torna a dialogare con i sindacati dunque, ma sul decreto approvato oggi doveva superare anche le resistenze di Tremonti, ma alla fine anche il titolare dell'economia con il ministro Tremonti è stato trovato un compromesso, perché la class action contro la pubblica amministrazione è stata stralciata dal provvedimento e finirà dopo il parere del Consiglio di Stato all'interno di un nuovo decreto. Infine, sul tavolo di Palazzo Chigi non è arrivato il piano casa, dopo che ieri era saltato l'accordo con le regioni. I governatori, Errani in testa, chiedono al governo sgravi fiscali per gli adeguamenti antisismici previsti dalle nuove norme, ma per il premier Berlusconi non ci saranno comunque rallentamenti. A partire dai primi di agosto, ha garantito il Presidente del Consiglio, si potrà procedere con l'aumento di cubature del 20% per case mono o bifamiliari e del 35% per le nuove costruzioni. Da Palazzo tutto questo però per il momento slitta. Grazie Paola Cavadi. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri è arrivato invece però, dicevamo, il dato del PIL di cui parlavamo prima. Dato atteso, ma che a questo punto fotografa la crisi. Il commento del Premier su questo l'abbiamo già sentito. Salutiamo ora invece Fabrizio Galimberti. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, abbiamo sentito, il governo cerca di continuare a infondere ottimismo sul mercato, tra i consumatori, tra i cittadini, le riforme vanno avanti, però il dato di oggi è una battuta d'arresto molto pesante. Come interpretare, Galimberti, questa frenata del PIL italiano? Beh, c'è bisogno di ottimismo, ma c'è bisogno anche di realismo. Il realismo ci dice che l'Italia non solo va indietro, come succede nelle recessioni e come succede purtroppo anche nel resto del mondo, però va indietro anche perdendo il contatto con gli altri paesi dell'Unione Europea. Abbiamo oggi nell'Eurolandia, nell'Eurozona, abbiamo una variazione di meno 4,6 sull'anno, quella dell'Italia è meno 5,9. Detto questo, però, ci sono anche delle ragioni. In Italia l'industria e il valore aggiunto dell'industria è il più forte dell'Eurozona dopo quello tedesco, è il secondo, e l'industria è stata colpita particolarmente da questo ciclo delle scorte che ha spazzato un po' tutta l'economia mondiale. E poi c'è anche da dire che insieme alla Germania, che la performance della Germania è ancora peggiore di quella dell'Italia, sono i paesi esportatori che soffrono di più, e quindi la forza relativa dell'export italiano sta dietro questa ritirata purtroppo non strategica ma vera e pesante. Però le inchieste congiunturali, quelle che guardano al futuro piuttosto che registrare il presente, ecco, queste ci dicono che il peggio sta passando. Viene da aggiungere una domanda: ne usciremo davvero meglio di altri paesi, come sostiene il governo? Beh, io credo che l'Italia è sempre stata nel dopoguerra un po' come un pezzo di sughero che galleggia sulla corrente del ciclo internazionale, e quindi saremo trascinati, sballottati, non credo andremo in fondo, una volta che si fanno i calcoli, né meglio né peggio degli altri. Grazie allora a Fabrizio Galimberti per questa analisi della situazione economica, a partire dal dato congiunturale di oggi, quasi il 6% di calo del PIL nel primo trimestre dell'anno rispetto all'anno scorso. Il tema dominante della settimana è però stato l'immigrazione, e oggi è un giorno in particolare importante. Anna, perché? L'abbiamo detto più volte in questi giorni, 15 maggio lo aspettavamo, è il dato dell'inizio ufficiale nel Mediterraneo per i patteggiamenti congiunti tra Italia e Libia, quindi dopo molte polemiche anche qui arrivano oggi i fatti, ma intanto il governo oggi si appella all'Europa. Allora facciamo il punto con Andrea Viali. Sì Anna, dopo le polemiche dei giorni scorsi sui respingimenti dei barconi carichi di immigrati che arrivano sulle nostre coste da quelle libiche, oggi il ministro dell'Interno Maroni incontrerà Lauren Jolleff, che è il rappresentante per l'Italia dell'UNHCR, cioè dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati. L'obiettivo di questo incontro, che sarà un incontro a porte chiuse, è quello di chiarire le preoccupazioni sul diritto d'asilo che erano state espresse nei giorni scorsi dall'UNHCR. L'Italia sappiamo che vuole che queste domande presentate dagli stranieri che chiedono assistenza umanitaria nel nostro paese, vengano valutate direttamente in Libia, quindi non più sulle nostre coste. I responsabili dell'Alto Commissariato per i rifugiati fanno però notare che al momento nel paese africano non ci sono strutture in grado di farlo. Si tratta naturalmente di un problema molto complesso e per questo l'Italia guarda anche all'Europa, e proprio stamattina a Bruxelles il nostro paese ha chiesto ufficialmente che il tema dell'immigrazione clandestina venga discusso dal Consiglio europeo, che è in programma il 18 e il 19 giugno prossimi. Linea allo studio. E ora per la cronaca, duplice omicidio questa mattina sulla Palermo-Agrigento, al confine tra Villabate e Misilmeri, vicino ad un distributore di benzina. Due persone sono rimaste uccise, una terza è rimasta ferita nel corso di una sparatoria. Tutte e tre sono dipendenti del consorzio Coinres, una società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, che dunque potrebbe essere in qualche modo il tema che fa da sottofondo a questa sparatoria. Andiamo ora a Torino, ingressi chiusi stamattina a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche e rettorato, per motivi di sicurezza. Lunedì e martedì nel capoluogo piemontese ci sarà infatti il G8 dell'università ed è montata la protesta degli studenti. Al G8 dell'università mancano ormai due giorni, a Torino la tensione inizia a salire. L'ultima miccia è scoppiata ieri con la decisione di chiudere da oggi fino a martedì Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche. Motivi di ordine pubblico, ha detto ieri sera il rettore. Sotto la mole sono attesi centinaia, forse migliaia di studenti e si teme che l'edificio nel cuore di Torino possa diventare un gigantesco dormitorio. Ma proprio loro, gli studenti, non ci stanno. Stamattina corteo e proteste proprio sotto l'ufficio del rettore, finché un incontro ha calmato gli animi. Da stasera per tutto il weekend concerti, dibattiti e cortei organizzati da tutte le diverse anime della protesta studentesca, dall'Onda ai centri sociali. Momento caldo martedì, quando in mattinata è prevista una manifestazione diretta al Castello del Valentino, dove per due giorni rettore e ministri si confronteranno sull'università del futuro. Si temono violenze, mobilitati 1000 agenti. Marco Ferrando, GR24, Sole 24 Ore, Torino. L'università del futuro al centro dunque dei colloqui e delle manifestazioni del G8 che partirà lunedì a Torino, protagonisti gli studenti di molti paesi, studenti in agitazione non solo in Italia ma anche in Francia, dove la protesta delle università sta bloccando la didattica ormai da 4 mesi, e tanto che molti rettori lasceranno aperti gli atenei quest'estate per fare recuperare le lezioni che si sono andate perse via via in queste settimane. Docenti e studenti in Francia protestano contro la riforma voluta da Sarkozy, un po' come ha fatto anche il nostro mondo universitario in quest'anno scolastico. Igor Fiatti è andato per noi alla Sorbona a Parigi e ha intervistato Philippe Deros, professore di letteratura comparata. Quando c'è stato l'inizio del movimento, è stato prima di tutto un movimento degli insegnanti, non dei studenti. I studenti si sono più o meno avvicinato delle proposte degli insegnanti molto più tardi, diciamo fine febbraio, il movimento era, il suo inizio era metà gennaio dal punto di vista degli insegnanti. Ciò che ha fatto sì che progressivamente, diciamo la metà delle università francesi e soprattutto le università di scienze umane, sono state più o meno bloccate, e direi che questa situazione andrà a finire probabilmente con il fatto di avere gli esami in settembre, ma penso che ormai questo malessere degli insegnanti e dei studenti potrà si riprodurre l'anno prossimo in un modo abbastanza continuo, forse con delle nuove forme di lotta, ma c'è un clima, diciamo, a questo momento di sfiducia assoluta dalla parte degli insegnanti a confronto del governo. E dalle università alle sale di lettura, se vogliamo. Andiamo alla Fiera del Libro di Torino, dove c'è la nostra Alessandra Tedesco. Buongiorno. Negli studi di Radio 24. Buongiorno, sì, dagli studi di Radio 24, che sono situati precisamente nel padiglione 2, corridoio H, accanto alla Sala Blu, lo diciamo per gli ascoltatori che magari vogliono venire a trovarci. Allora, dicevamo, ragazzi, accennavate voi, studenti. Proprio questa mattina è stata diffusa un'indagine dell'Istat realizzata in collaborazione con l'AIE, che è l'Associazione Italiana Editori, su le abitudini di lettura, appunto, dei giovani, quelli compresi fra i 16 e i 19 anni. Che cosa emerge? Beh, emerge che leggono più dei genitori, anche se meno dei loro coetanei europei. Ma facendo una classifica un po' dei consumi culturali, allora, come si colloca la lettura di libri per i ragazzi? Ce lo spiega la curatrice della ricerca Istat, Miria Savioli. Facendo la graduatoria delle attività culturali che i ragazzi svolgono, il libro si colloca al quarto posto, preceduto dal cinema, PC e radio. È ovvio, se poi consideriamo la TV, che si colloca non solo per loro ma per tutte al primo posto, i libri slitterebbero al quinto posto. In ogni caso occupano una posizione importante nella graduatoria, venendo addirittura prima di internet. La quota di ragazzi che dichiara di utilizzare internet è infatti del 53,3%, abbiamo detto quella di lettori di libri il 50%. Quindi quando è che si inizia a leggere meno? Diciamo che fino ai 14 anni la quota di lettori è molto alta, quindi diversamente da quanto generalmente si pensa, cioè che già nella fase dell'adolescenza la quota di lettori si contrae, in realtà non è così, perché il vero e proprio crollo, ovvero in realtà è una diminuzione, non è un crollo vero e proprio, lo incontriamo a partire dai 15 anni, quindi fino ai 14 anni il libro occupa comunque una parte importante nella quotidianità e nel tempo libero dei ragazzi. E infatti poi le cose cambiano con l'età. Se, come avete sentito, 56 ragazzi su 100 hanno letto almeno un libro nell'ultimo anno, fra gli adulti la percentuale scende al 40%. Ma tornando ai ragazzi, rapidamente, ci sono anche forti differenze di genere e forti differenze geografiche. Leggono di più le femmine, per loro i libri sono al terzo posto dei consumi culturali, per quanto riguarda i maschi invece sono al sesto. Infine la differenza fra nord e sud: al nord legge il 73% dei ragazzi fra i 6 e i 19 anni, al sud circa 48%. E da Torino è tutto, direi. Grazie Alessandra Tedesco. 13, 21 minuti e 30 secondi, torniamo con GR24 Extra Large. E siamo partiti dal calo del prodotto interno lordo italiano nei primi tre mesi dell'anno rispetto ad un anno fa. Il calo è di quasi il 6%, anche se il governo si dice ottimista, sta andando meglio. Queste dichiarazioni di questa mattina, poi il Consiglio dei Ministri, l'ok alla rivoluzione antifannulloni e il ministro Brunetta ritira le dimissioni. Sono partiti oggi i pattugliamenti congiunti Italia-Libia, frutto dell'accordo tra i due paesi. Roma però continua ad attaccare l'Europa, sta facendo troppo poco. Adesso il Papa che saluta la Terra Santa. E infatti oggi l'ultimo giorno di viaggio del Pontefice, la tappa di oggi è la visita al Santo Sepolcro, uno dei luoghi più sacri per la cristianità. Stop al terrorismo, mai più la guerra. Nel discorso alla cerimonia di saluto a Tel Aviv, Benedetto XVI ha lanciato un nuovo messaggio di pace in Medio Oriente, pochi minuti prima di imbarcarsi per Roma, al termine della missione di 7 giorni in Terra Santa. Davanti al Presidente della Repubblica di Israele, Shimon Peres, il Papa ha ricordato le vittime della Shoah e ha esplicitamente parlato di sterminio, usando quindi parole più forti e più esplicite di quanto non aveva fatto al memoriale dell'Olocausto e per le quali era stato criticato. Ha nuovamente auspicato una soluzione che porti alla creazione di una patria palestinese, parlando anche in questo caso molto chiaramente di due stati e un ricordo del muro di divisione in Cisgiordania. La sua visione, ha detto, è una delle immagini più tristi di tutto il viaggio. Carlo Marroni, GR24, Il Sole 24 Ore, Tel Aviv. E sul bilancio di questa visita del Papa in Terra Santa, in terre israeliane e palestinesi, il commento di Don Filippo Di Giacomo. Il pregiudizio di questo viaggio voleva un Papa antipatico con dei trascorsi nazisti che veniva ricevuto quasi dovesse fare gli esami di riparazione di antisemitismo. In realtà l'antisemitismo Benedetto XVI lo ha dimostrato dai tempi della nostra epate. Questo Papa non è antipatico, non è mai stato nazista. E inoltre ha concluso con uno splendido successo diplomatico, un viaggio che ha riportato a casa certamente l'acquisizione che, oltre a fare politica con Israele, le potenze occidentali, l'Unione Europea, dovranno, America compresa, dovranno d'ora in avanti fare politica anche con i palestinesi. Questo su un orizzonte di un incontro che avverrà tra qualche giorno con un personaggio, secondo me, che certamente non era indifferente nel chiedere al Papa di fare questa visita. E come si chiama questo personaggio lo sapremo tra qualche giorno, visto che ormai è chiaro a tutti che avere uno Stato palestinese indipendente diventa sempre più urgente anche per interessi strategici dell'America. E allora vediamolo proprio questo viaggio di Obama in Egitto, per cui c'è molta attesa, con la nostra finestra sul mondo arabo di oggi. La stampa araba di oggi pone al centro dell'attenzione l'intensa attività diplomatica in Medio Oriente in vista dello storico viaggio del presidente americano Barack Obama in Egitto. A far da perno delle fitte consultazioni tra i capi di Stato medio orientale è il sovrano giordano tornato da un viaggio lampo a Washington con in mano una bozza di un piano di pace americano che riprende a grandi linee quello saudita. Il 4 giugno, nel suo discorso alla nazione musulmana, Obama annuncerà dal Cairo il suo grande piano per pacificare arabi e israeliani. Secondo indiscrezioni trapelate dalla corte del re Giordano, nell'occasione il capo della più grande potenza mondiale convocherà una conferenza internazionale per il prossimo ottobre per far approvare il suo progetto da Israele e da 57 stati arabi e musulmani. Hadin Fatahali, GR 24, Il Sole 24 Ore. E adesso andiamo in Abruzzo, dove oggi a fare il punto sulla ripresa delle attività produttive sarà il ministro Scajola, però ci sono anche notizie che riguardano la ricostruzione. Marcello Ianni, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono qui per capire come aiutarvi, come operare sul fondo di solidarietà, perché bisogna consentire alla gente di ritornare nelle loro abitazioni e riprendere il lavoro. È quanto ha detto poco fa il commissario europeo per le politiche comunitarie, Danita Hübner, in visita all'Aquila nelle zone colpite dal terremoto. Al termine della riunione avuta con il capo di dipartimento Guido Bertolaso, il ministro per le politiche comunitarie Andrea Ronchi e con il presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi, un incontro il quale doveva esserci anche il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, rimasto a Roma per impegni istituzionali. Il commissario Hübner ha più volte rimarcato l'intenzione dell'Europa di non abbandonare l'Aquila e soprattutto gli studenti che devono tornare a settembre tra i banchi. Io sono un insegnante universitario, ha detto la Hübner, so quali sono ora i disagi dei ragazzi e lavoreremo per risolvere questi problemi. Parlando delle piccole e medie imprese, la Hübner ha sottolineato l'importanza delle istituzioni locali per incoraggiare la ripresa. Per il ministro Ronchi gli impegni presi dal governo verranno mantenuti, ma è necessario lavorare bene oggi, presentando documentazione al 100% definita. Il governatore regionale Chiodi ha infine detto che occorre lavorare per rimodulare i finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR 2007-2013 non utilizzati per la risoluzione dei problemi del post terremoto. È partito male sul fronte invece della ricostruzione, è partito male il lavoro dei tecnici della Protezione Civile per avviare gli espropri dei terreni su cui costruire le casette prefabbricate per 15.000 sfollati, come previsto dal decreto firmato 2 giorni fa dal capo della Protezione Civile Guido Bertolaso. La situazione è più difficile a Pagliare di Sassa, dove i proprietari di alcune aree hanno fortemente contestato il decreto di occupazione temporanea che gli è stato consegnato. La contestazione è scoppiata subito dopo l'arrivo dei tecnici giunti con tanto di mappe catastali. I proprietari hanno tentato di spiegare ai tecnici che poche centinaia di metri di distanza ci sono aree di proprietà comunale, del demanio da poter utilizzare, e che proprio per questo non c'era ragione di portare via dei privati cittadini terreni acquistati. I terreni. Grazie dunque a Marcello Ianni. Così per quanto riguarda i terreni sui quali sorgeranno le cosiddette casette provvisorie, ma ci sono anche, sono 30.000 gli sfollati che ancora sono negli alberghi della costa. Presto però partirà la stagione estiva e per loro sarà esodo forzato. Secondo quanto diffuso dai giornali, i 30.000 sfollati del terremoto che alloggiano negli alberghi rischiano di dover abbandonare le loro sistemazioni entro i primi di giugno per far posto ai turisti. Gli alberghi auspicano che la Protezione Civile possa ridistribuire al più presto i terremotati in altre strutture dell'interno. Sentiamo Adriano Tocco, direttore del Grand Hotel Adriatico sulla Riviera Abruzzese, che ospita al momento circa 300 sfollati. Nessuno può cacciare nessuno, solo la Protezione Civile, in questa concertazione con la Protezione Civile e con le associazioni di categoria possono decidere questo, e per questo è stato istituito questo coordinamento dove tutte le disponibilità, tutte le richieste anche confluiscono, e poi questo coordinamento dovrà occuparsi di ridistribuire e di distribuire le disponibilità nelle varie strutture che magari hanno. Intanto gli alberghi che ospitano i terremotati, oltre a far fronte all'annullamento di molte prenotazioni, attendono ancora i rimborsi. Così ci hanno risposto all'Hotel Prestige. Sicuramente quest'anno le cose andranno in maniera diversa rispetto alle stagioni estive precedenti. Come siamo ancora ai primi tempi, insomma il primo mese, quindi proprio burocraticamente queste cose insomma non ancora prendono, diciamo, il giusto corso. Questo forse lo potremo dire fra un altro mese, fra qualche mese. Penso che sia ancora poco tempo, proprio insomma per mettere insieme le pratiche, per far partire il tutto. Maria Grazia Puceddu, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora il Giro d'Italia, oggi settima tappa, 244 chilometri tra Innsbruck e Chiavenna, un tracciato con una lunga salita che termina a 36 chilometri dal traguardo, un tracciato che sembra adatto per una fuga da lontano, un po' come è successo ieri, ma non so se ci sarà la replica. Dario Ceccarelli. Ma può darsi. Ieri una giornata... Sì, ieri una giornata molto divertente, devo dire, perché è vero che i grandi della corsa, i capitani, hanno dato via libera perché tutto sommato dovevano riposarsi, però è stata una giornata divertente perché questo Michele Scarponi praticamente ha fatto una fuga di 200 chilometri e sono episodi così, in genere si tende a dire da ciclismo eroico, da ciclismo d'altri tempi, però poi tutti si dimenticano. Sì, si dimentica che in fondo tutto sommato questo Michele Scarponi è un corridore dei nostri giorni, che tra l'altro viene da una vita agonistica un po' particolare, perché lui fu squalificato per 2 anni nella famosa inchiesta di Spagnola, e quindi ha un passato un po' di ombre, dove però lui ha detto: il passato è passato, mi sono riscattato, e tutto sommato apprezziamo il suo gesto, ecco, il suo gesto atletico. Poi è evidente che il doping è sempre un'ombra che è sempre lì acquattata, pronta a colpire il giro. Ecco, siamo ai primi 5-6 giorni, si può già fare un piccolo bilancio. Il giro è scattato abbastanza sulle punte già nella prima settimana. Sì, perché questo giro è strano, parte subito con l'acceleratore innestato, no? E quindi è andato subito in montagna e ogni giorno ha dato degli episodi da commentare. Si può dire una cosa, che ha dato 2 sconfitti, uno è Lance Armstrong e l'altro è Damiano Cunego, che sono già quasi fuori classifica per la maglia rosa, e invece ha tirato fuori questo Di Luca, che è una maglia rosa e forse può arrivare fino alla vittoria finale, e poi tutta questa pletora di stranieri che è molto fitta, come dicevamo ieri, e che quindi possono parlare straniero, insomma. Il pericolo straniero titola oggi la Gazzetta, da questo punto di vista. Sì, c'è un pericolo di questo tipo. Noi siamo una nazione aperta, come si dice, quindi li aspettiamo al Giro d'Italia. Grazie Dario Ceccarelli. Naturalmente il giro continua e quindi ne parleremo anche nei prossimi giorni, poi in tutti gli appuntamenti di Radio 24. 13:38 minuti, le notizie di oggi di GR24 Extra Large. Meno 5,9% il prodotto interno lordo italiano nel primo trimestre rispetto ad un anno fa. Ecco i numeri della crisi. Il governo si dice però ottimista, sta andando meglio. Arriva l'ok dal Consiglio dei Ministri alla rivoluzione antifannulloni e Brunetta ritira le dimissioni. Al via i pattugliamenti congiunti tra Italia e Libia, ma Roma attacca l'Europa, sta facendo troppo poco e chiede di parlarne al prossimo vertice. Il Papa con la visita al Santo Sepolcro saluta la Terra Santa con una speranza, la pace è possibile, dice. Il G8 degli studenti a Torino, tensioni alla vigilia del vertice, dall'Italia alla Francia l'onda delle proteste. E intanto oggi scioperano i mezzi pubblici, più traffico e qualche disagio nelle città. Dalla mattina alla sera, lavorando senza contare le ore di lavoro, mi preoccupo di dare il massimo lavoro possibile a tutti gli operai italiani. Questo un frammento di un audio storico, e era Benito Mussolini. Anna, era l'anno 1932, perché questa spieghiamo perché abbiamo scelto una fabbrica. Oggi è una data, un anniversario, 15 maggio 1939, 15 maggio 2009, 70 anni fa la nascita degli stabilimenti Fiat di Mirafiori. Sono passati 70 anni, oggi la notizia del lingotto e la scalata all'America e all'Europa, allora si preparava ad un'altra sfida, quella di motorizzare gli italiani. E forse avrete sentito un tutù del telefono, perché era il nostro ospite che è caduta la linea. Ecco che ci ha raggiunto. Valerio Castronuovo, buongiorno. Buongiorno. Docente di storia contemporanea all'Università di Torino. Mirafiori di allora e Mirafiori di oggi, professor Castronovo, tanto diverse o no? Ma intanto va segnata, diciamo, una sorta di continuità, se così si può dire, visto che sono passati 70 anni. Mirafiori fu costruita, realizzata dal 1936, poi inaugurata nel 1939, perché la Fiat, dopo la guerra d'Etiopia, riteneva che in Europa, in Italia, succedesse un periodo di pace e aveva messo in cantiere la Topolino. Era Topolino. E con la Topolino la Fiat in qualche modo cercava di motorizzare l'Italia, oggi con la nuova 500 cerca di conquistare l'America. Professor Castronovo, c'è ancora con noi? Oh, eccolo, davvero no. Qualche problema sulla linea. Un po' più di qualche problema, evidentemente. Ma insomma, proviamo forse a recuperarlo, altrimenti intanto ci colleghiamo all'argomento della Fiat, perché insomma, oggi l'Italia riscopre l'automobile. Ma riscopre anche la bicicletta, e quindi in qualche modo torniamo indietro? Con l'accordo firmato tra il Ministero dell'Ambiente e l'Associazione Nazionale dei Costruttori di Cicli e Motocicli, dal 23 aprile è possibile risparmiare anche il 30%, fino a un massimo di 700 euro, sull'acquisto di biciclette, ciclomotori e veicoli elettrici per contribuire alla diffusione di veicoli a basso impatto ambientale. Dopo solo 21 giorni, però, a causa dell'eccessivo numero di richieste, il sistema informatico è andato in tilt ed è scattato lo stop agli ecoincentivi. L'Associazione Nazionale dei Costruttori di Cicli e Motocicli ha deciso di non accettare più le fatture emesse con data posteriore al 12 maggio. La campagna è stata interrotta per consentire ai rivenditori di smaltire le domande accumulate in questi giorni. Come ci ha spiegato il direttore generale dell'ANCMA, Costantino Ruggero. Sono stati sospesi perché temiamo che una volta che il sistema abbia caricato tutte le vendite già effettuate e non ancora appunto caricate, di fondi per gli incentivi non ce ne siano più. Quindi tentiamo di evitare che alcune vendite effettuate con gli incentivi non siano coperte dal fondo. Una cosa assolutamente incredibile e inimmaginabile se pensiamo che l'anno scorso erano andati via 6 milioni in un anno, quasi tutti per i ciclomotori, mentre quest'anno che oltre il 99% della somma investita riguarda le biciclette. L'anno scorso in un anno gli incentivi alle biciclette aveva consumato 91.000 euro, quest'anno in 10 giorni ha consumato più di 8 milioni. C'è stato un boom assolutamente incredibile. L'incentivo medio erogato è stato di circa 200 euro le biciclette vendute, più di 35.000 e un centinaio i motorini. E i numeri continuano a crescere. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Era una delle attrici più belle degli anni 70 e 80. Farah Fawcett era divenuta famosissima per essere una delle Charlie's Angels. Oggi però è gravemente malata di cancro e ha raccontato la sua battaglia in un documentario televisivo che sta facendo discutere. Mai un documentario su una celebrità si era spinto così lontano. Farah Fawcett, 62 anni, una delle più belle attrici americane che racconta la sua battaglia contro il cancro. Farah si è fatta seguire passo a passo dalle telecamere nell'ospedale di Los Angeles, dove è ancora ricoverata, e in Germania, dove ha seguito un trattamento speciale e ha nascosto poco o nulla. She was smart and she was funny and very shy. È sempre stata intelligente, simpatica e timida, racconta il suo compagno storico Ryan O'Neill, che si è riavvicinato a lei nel momento della malattia, mentre anche lui era in cura per una leucemia. E presentando il documentario parla al passato come se non ci fossero più speranze. Il cancro si è esteso al fegato e Farah sta ormai molto, molto male. Possiamo dire che è la sua eredità, il suo dono al mondo, racconta l'amica Alana Stewart. Farah spiega, vuole condividere il suo viaggio con tutti quelli che stanno affrontando la stessa battaglia. A poche ore dalla messa in onda prevista questa sera su NBC arriva anche la battaglia legale per bloccare la trasmissione. Uno dei produttori accusa Ryan O'Neill di essersi impossessato del documentario e di aver incluso riprese che Farah non aveva mai visto né approvato. L'attore, fa sapere un portavoce, trova questa causa legale deplorevole e disgustosa. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:46, torniamo in studio. Meno 5,9% il calo del PIL italiano nei primi tre mesi dell'anno rispetto ad un anno fa. Il governo però si dice ottimista. È arrivato l'ok del Consiglio dei Ministri alla rivoluzione antifannulloni, così il ministro Brunetta ha ritirato le sue dimissioni. Ci siamo occupati nella prima parte di Extralarge anche del via ai pattugliamenti congiunti tra Italia e Libia. L'Italia però chiede aiuto all'Europa sull'immigrazione, sta facendo troppo poco. E poi le ultime ore del Papa in Terra Santa, che con la visita al Santo Sepolcro ha lanciato il suo ultimo appello per una pace possibile. E che le carceri italiane siano sovraffollate non è una novità di questi giorni. La novità è che per risolvere il problema il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha fatto delle proposte al Ministro della Giustizia. Tra queste c'è anche la creazione di carceri galleggianti, in sostanza piattaforme unavi ormeggiate in uno qualsiasi dei numerosi porti italiani dove trasferire i detenuti che nelle carceri non ci stanno più. Fra le altre ipotesi c'è anche la costruzione di 46 padiglioni, 22 nuovi istituti, di cui solo nove però già finanziati, e che dovrebbero portare complessivamente un incremento di 17.000 posti. Altra novità: per costruire nuove carceri potrebbero essere impiegati direttamente i detenuti, seppure si spiegano dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria soltanto per interventi edilizi complementari. E che la situazione nelle carceri italiane non sia facile, ma sia anzi tutt'altro molto difficile, lo testimoniano le proteste che stanno scoppiando proprio in questi giorni. Sentiamo. Domenica i detenuti del carcere di Lodi, armati di scope, guanti e sacchetti, ripuliranno i boschi lungo il fiume Adda. Cercheranno di ripulire la loro fedina penale, quindi pulendo il territorio. Un'occasione di riscatto sociale, senz'altro, ma anche l'opportunità di lasciare per qualche ora quelle quattro strette mura, sempre più affollate, sempre meno vivibili. Devono dire grazie alla fantasia della loro direttrice, ma non tutti sono fortunati come i carcerati di Lodi. Per la maggioranza la cella è più stretta oggi di un anno fa. Per questo i detenuti del carcere Due Palazzi di Padova iniziano oggi lo sciopero del carrello, come si chiama lo sciopero della fame in carcere, perché denunciano in celle singole da 8 metri quadri, da mercoledì si vive non in due ma in tre. Convivenza impossibile, specialmente quando la temperatura raggiunge o supera i 40 gradi. A San Vittore a Milano non va meglio. 9 detenuti sono ospitati in celle di 10 metri quadrati. Intanto il garante dei diritti dei detenuti nel Lazio, Angelo Marroni, è seriamente preoccupato per il numero crescente di morti fra i carcerati. Se andasse con questo trend tutto l'anno, noi potremmo avere più morti in carcere l'anno scorso. Suicidi o anche morti per malattie più o meno gravi. Tutta la condizione carceraria sta peggiorando visibilmente. Ci sono perfino previsioni del Dipartimento che immaginano alla fine del 2012-13 potremmo avere circa 90.000 detenuti. Al momento nelle carceri italiane ci sono poco meno di 63.000 presenze rispetto a una capacità delle carceri di 43.000 posti letto. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Oltreoceano, alle prese con un problema di carceri, ma un po' particolare, è anche il governo americano. Giulia Crivelli, buongiorno. Il carcere più famoso del mondo. Guantanamo, sappiamo che era già stato annunciato in campagna elettorale da Obama che avrebbe fatto qualcosa, probabilmente l'avrebbe chiuso. Naturalmente quando ha poi annunciato che effettivamente avrebbe chiuso si è scatenata la campagna dei repubblicani. C'è il Washington Post parla di questo spot televisivo che c'è in questo momento negli Stati Uniti, dove si fanno vedere le persone detenute a Guantanamo e quello che sono accusate di aver fatto, naturalmente sono atti di terrorismo. Il Washington Post, che è molto attento ovviamente a quello che succede in Parlamento, nel Congresso, perché è il giornale della capitale, parla di questa presa di posizione di Nancy Pelosi, che è la potentissima speaker della House of Representatives democratica, che è tornata sull'argomento di come probabilmente Bush e la CIA hanno in qualche modo misled, cioè hanno ingannato o hanno portato alle sbagliate conclusioni i membri del Congresso. E questo riapre naturalmente ancora il dibattito su Guantanamo. È, secondo il Washington Post, una mossa proprio prettamente politica per spostare un pochino l'attenzione, o meglio, una contromossa per spostare l'attenzione da questa bombardante propaganda repubblicana. Giulia, ci porti invece sul Financial Times per parlare di sport, più o meno? Sì, è molto divertente. C'è questa column di Paul Betts che fa un paragone tra la Formula 1 e la Coppa America, che guarda caso viene spesso un po' così superficialmente definita la Formula 1 del mare. E lui dice, se le guardiamo in questo momento, i protagonisti di queste due grandi competizioni, che poi sono il simbolo appunto della Formula 1 e della vela, stanno dando un pessimo esempio di comportamento sportivo, sono tutti presi da rivalità personali, si ricattano a vicenda, questo sappiamo un po' è vero per la Formula 1, è cronaca di questi giorni, ma anche per la Coppa America, che non si sa ancora quando si terrà, su quali barche si gareggerà, perché c'è questa grande contesa tra i due miliardari della vela. Grazie, tutto sul Financial Times, grazie a Giulia Crivelli, in quanto a litigi, in quanto a non buoni esempi sportivi, però noi non possiamo insegnare nulla a nessuno con Calciopoli, allora andiamo a Napoli, oggi nuova udienza proprio al processo per Calciopoli. Enzo Danna, quali novità? Sì, buongiorno, l'udienza di oggi è stata dedicata all'ammissione delle prove nei confronti dell'ex direttore generale della Juventus, l'imputato principale di Calciopoli, Luciano Moggi, e degli altri imputati giudicati con rito ordinario. Il Tribunale ha ammesso l'acquisizione delle intercettazioni telefoniche e dei tabulati relativi alle schede SIM estere che, secondo l'accusa, Moggi avrebbe fornito ad arbitri e designatori. Per quanto riguarda i testimoni, ne verranno ascoltati 50 per parte, un'altra cinquantina indicati dagli altri imputati, e la prossima udienza è stata fissata per martedì 19. In tutto sono 48 le persone coinvolte in Calciopoli, ricordiamo, delle quali 21 sono accusate di associazione per delinquere. Appena lunedì scorso si era svolta l'udienza dedicata agli 11 imputati che hanno chiesto di essere giudicati invece con il rito abbreviato. I pubblici ministeri in quell'occasione avevano chiesto condanne da 1 a 5 anni di reclusione, la più pesante per l'ex amministratore della Juventus Antonio Giraudo. E per gli altri va avanti il processo ordinario. Grazie Enzo Danna. È tutto per questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizio, Anna Migliorati in studio, al coordinamento Daniele Biacchessi, regia Peter Bescapè. L'appuntamento con Extra Large per lunedì, come sempre, a partire dalle 13. Buon fine settimana. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.